Hello. Hello, guardate uno stand. Quindi ascolta, cercare un po' di log per me. Aspettatemi un po' più di cose. Sì. Ehi, chi va a fissare? E vi geek. Ehi, ok, ma per fissare, ecco, è che sta sempre che raisni. Vai, so che allora sei i vanti di detta, ne? Ehi, da Attacco, ho qui un monto di ar. sempre, vai, ciò. Così. Adesso è un bel barriere legale, suppose. Associva neanche il fisente, ma forse. Nato. Nem? Ok. Associva neanche il fisente, ma c'è qualche vecchio Sì, di ok, tutti i che fisenti. c'ho più tardi. Ah, associva le vanti, chi vanti sette. Serinted? Beh. No, ecco, qualcosa scusate, chi è il fisente. Io assistiamo chi fisente, ti esiva, to, uomo, meghi. Non più tardi, che Non è chiedo a così. chi altro non più tardi, andiamo a scendere. Aspetta, come si chiama il mio amico? Sì, va. Usi le robotti, si va, chi si fa? Aspetta, Pisa, ma ciò. come si fa? Chi si fa in questo? Ma non ci siete. Ah, ne va Ah? niente, no, come? E di vedi il resto, scusate. Rassano, tecco, tocco, via, so, ospedina, chiesa, da scelta, nuta. Mi dice da? Poi, aspetta, ma, tecco, poi, chi le viene irvo? Ora, scelta, nuta, che aderisci, io. Oh, Chiesa. allora non babele. O si scelta, Ah, nuta. scusate. Ah, scusate, fai, c'è tocco. Sì, io le Ma voglio invece. scelta, nuta, tecco, che aderisci, io. O si scelta, nuta. E Io. allora, come sai, io faccio una sia. No.